fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Nella nostra radio succedono anche miracoli e cose strane, perché abbiamo riunito un gruppo che prima era smembrato solo da pochi elementi, invece adesso l'abbiamo rimesso in via viste, tranquille, via viste. Stanno facendo riconoscere le tre maestre d'asilo ed estetista che sono venute a salutarci prima. Abbiamo adesso l'altra parte di gruppo, immagino, ok? Vai, presentatevi anche gli altri. Buonasera, mi chiamo Simone Cesa, sono un grande maestro in qualsiasi cosa, soprattutto stasera. Un tuttologo, incredibile, bravo. È un tuttologo, bravo. È un bel mestiere che è andato in disuso e quindi bravo che l'hai recuperato. Poi c'è il ragazzo qua. Tutto lui. Ciao, buonasera, sono il cameriere, mi sono vestito a tema, non so se vedete l'outfit. Bravo, il cameriere deve... Sì, ve lo posso confermare, esatto. In realtà vendo vino, raga. Vino buono. Certo, anche cos'è? Come si chiama? Enologia. Lui è un enologo. È un enologo, quindi va forte, va forte. Ha studiato. Va forte. Grande enologo. Ma poi chi c'è, raga? Poi c'è la fede. Ciao, sono la fede. La fede. Ma la fede inteso come, cioè, cosa filosofica? La fede di Gesù Cristo. No, la pensavo fosse una cosa religiosa, un'entità spirituale. No, è arrivato terrena. È arrivato il 25 dicembre, dai. Insomma, si è presentata così, non aggiungendo altro. La fede però, e forse di Napoli. 33 anni. La fede di Napoli. Va bene. Poi c'è il ragazzo qua, è un po' uno zingarello, però c'è. Ciao, sono Simone, chirurgo plastico. Bravo. Faccio lui tette tutto il giorno. Ha capito tutto della vita. Bravo. Mi ha fatto un lifting lì sotto, che è una roba di qualità. Bene, poi voi? Vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Gianmarco. Studio. Okay. Non so neanche io che cazzo. Studio. Va bene così. Che è un nuovo corso di laurea, studio. Fisiologia, diciamo che è un grande tema. Anatomia, fisiologia, anatomia medica. Bellissima. Molto. Quindi sei uno psicologo praticamente. Diciamo che non ho capito. È la stessa cosa. Più o meno lì. Poi? Buongiorno, mi chiamo. Buongiorno. Allora, io non voglio giustificarla, ma non ha proprio tutti i torti, perché sono le 3 del mattino. Quindi diciamo che ci può stare il buongiorno, ci può stare. Mi chiamo Noemi, studio Salisburgo e studio pedagogia e mi piace molto. Vuole fare la maestra come noi! Ma pensa un po', proprio modelli di ispirazione. Hai dei modelli proprio da cui. Mi piace che il ragazzo interpreti le professioni completamente a modo suo, le ha totalmente riadattate, ma no, è bello che viva in un mondo parallelo in cui le professioni vogliono dire altro. Siamo sorelle. È vero, l'esempio in casa, quindi giustamente vuole prendere le orme della sorella. Poi ultimi due. Ciao, io sono Nicola Improta, sono un tecnico informatico e lavoro a Bolzano. Cioè, l'unico che non fa fisioterapista, ginecologo, un hacker. Tecnico informatico, è un hacker. Stai attento. Stiamo attentissimi, assolutamente. E chiudiamo con? Allora, sono Belen, sono con Santiago a casa, però... Che giustamente con la B era già occupato e lei deve usarlo con la V per diritti d'immagine, non può copiare lo stesso nome, okay? No, Balen, allora sono Balen. Faccio niente se non farò del mio culo a cassa. Sei amica di quello che faceva il chirurgo plastico? Assolutamente, quindi, sì. C'è del tenero. Io volevo dire solo una cosa: viva le tette per sempre. Ciao. Santa subito questa donna, santificatela immediatamente. Io non so se ha fondato un partito politico, ma gli ho già dato il mio voto. Cioè, già fatto la X con la scheda elettorale. Viva le tette! Assolutamente. No, ma le tette sono più belle del culo. Per fortuna, perché il culo non c'è. È veramente un gruppo magnifico. Ricordo sempre, ci sono 3 maestre d'asilo in tutto questo e che fanno parte di questo gruppo. È un chirurgo, è un chirurgo plastico. Che ha come modello di riferimento la nostra Belen, sì, insomma, manderò a Santiago, che giornalmente lo va a visitare, perché grazie, grazie. Lui fa proprio i modelli di riferimento sulla nostra Belen. All'estetista. E poi lo manda all'estetista per le smagliature, per togliere le smagliature e rendere tutto il perfetto. Ma è un massaggio giusto alla fine. È un massaggio giusto. Fai tutto questo, dopo un po' ti devi rilassare. Allora andiamo dall'estetista. Assolutamente. La canzone poi la canzone si può mettere così alla buona, proprio da Belen, contando Lunar, per esempio, così. Questa non ce l'abbiamo purtroppo. Allora, grazie, un po' così alla... Vuoi sentire? Vuoi cantarla tu? No, io? È buono, non so. Cantiamola noi, no. Comunque, complimenti. Un accenno. 1, 2, 3. Vente, vacila un pochito, che anche io me haga loquito, me canta e lo sale. De boca lo quita mía, yo sé quién eres realmente, no lo que ellos saben. Esa mami me tiene loca, ya cocino como playa contando lunares. Oh, in 20 secondi abbiamo acchiappato tutto il pubblico al giardino dell'America Latina. Siamo sbancato il lunare. Tu ridi e scherzi, ma noi qui a Bolzano abbiamo tutto, cioè, cioè, esatto, l'Argentina, la Salisburghese, cioè, pure il Cantati ce l'abbiamo. Io Salisburgo, sono un imprenditore, sono pieno di soldi, vivo in una villa. Poi la mattina mi sveglio. Ancora non c'hai mi piace, perché si è sentito inferiore e quindi ha voluto sottolineare alcune cose, perché giustamente ha detto lei fa vedere quello che fa vedere e vive di rendita. Lui, questo qui, tocca tutte e trova tutti. L'hai detto tu, la dichiarazione. Poi sono le 3 maestre, il tuttologo. Ok. Allora, ragazzi, volete fare un augurio in chiusura? Ti amiamo! Allora, un augurio generale per Bolzano, no. Numero 1. Allora, Belen, vai. Volevo dire una cosa, volevo fare gli auguri a tutti, non so questa radio che cos'è. Non ti preoccupare. Però... Radio Convento. Non è la mia radio, ragazzi. Oh, la mia radio non è Radio Convento, però. Cioè, ci sono viaggiatori che stanno viaggiando in questo momento, che stanno ascoltando. Sulla Brennero, Sì, la gente che passa di fianco al convento sente: cazzo, Radio Convento. Oh, Radio Convento. Cioè, no, non solo Radio Convento, c'è Belen a Radio Convento. C'è Belen a Radio Convento. Ascolti alle stelle. L'unica cosa che posso augurare quest'anno è tanta salute, viva le tette, viva il culo, viva la viva il 2020. Questa storia da viva la fea mi ha rotto proprio il cazzo. Viva il cazzo, raga, ma che cazzo è viva la fea? Vaffanculo, sono Belen. È che la Belen Rodriguez, veramente quella reale, che ci fa una pipa. Assolutamente, sì. Raga, oh, adesso questa è la mia voce. Chiamiamo Belen. Le farfalline, insomma, dai. Assolutamente d'accordo. Con quest'anno, d'accordo. 2020. E come sempre, in chusura, ricordiamolo perché è importante: ci sono 3 maestre d'asilo nel gruppo. Questo è sempre importante. È un chirurgo. Sempre importante sottolinearlo. Le cantanti e il chirurgo. E esatto, Croce Rossa. Perfetto, ragazzi. Grazie mille. Buon anno. Ciao.